известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. È proprio tempo di anniversari, questo luglio del 2009, poi c'è soprattutto questo quarantennale verso il 69, in particolare il 69 americano, che sembra non voler tramontare, anzi rilancia tutta una serie di appuntamenti, in un certo senso dando il segno di come quell'estate del 69 fu un'estate epocale, importante, che è destinata a segnare il futuro dell'America e anche del mondo, e come poi la memoria oggi abbia voglia, ma anche bisogno, di tornare a rileggere quegli eventi. Andremo anche noi a parlare di Luna qui a Jefferson, perché molti altri programmi se ne stanno occupando, a Radio 24, anche in tutti i media italiani, internazionali, nel mondo. Insomma, è davvero l'evento da rivivere, ma ce ne sono altri di quei giorni caldi, famosi del 69, che ci fa piacere rispolverare, perché sono all'origine di una serie di cambiamenti, in un certo senso sono anche il termometro di una nazione, nella fattispecie l'America, che poi, secondo la famosa teoria dei cicli, no? Torna a rivivere una inquietudine non troppo diversa oggi, 40 anni più tardi, anche se molti indici sono diversi e tanti protagonisti naturalmente non sono più gli stessi, ma uno in particolare è ancora lì ed è esattamente il protagonista della prima parte della puntata di oggi, che sarà appunto incentrata su due storie americane del passato, riviste, rilette oggi. La prima riguarda Ted Kennedy, l'ultimo dei tre fratelli Kennedy a lanciarsi nella sfera politica americana, e dedicato alla storia di quella terribile notte del 18 luglio 1969, quando i suoi sogni fragorosamente, colpevolmente, si infransero. Stiamo parlando di una storia che viene oggi identificata con il nome dell'incidente di Chappaquiddick. Allora, per chi la conosce può essere sicuramente un nome che risveglia ricordi, come il nome di Mary Jo Kopechne, che poi è la vera vittima di questa storia. Per chi non l'ha mai sentita può essere una angolazione assai particolare su un personaggio che prima di tutto porta quel cognome, il cognome per antonomasia nell'America del XX-XXI secolo, Kennedy, no? il cognome invocazione per antonomasia, ma che poi nasconde anche molte problematiche legate alla descrizione del potere, in certi casi all'arroganza del potere, alla tematica di una giustizia che non sempre è uguale per tutti, e poi anche alla caduta politica di questo leone, l'ultimo leone è il soprannome che ancora oggi Ted Kennedy, che sapete malatissimo, perseguitato da un tumore al cervello, eppure ancora attivo, ancora presente sulla scena politica americana, l'ultimo leone, si azzoppò politicamente parlando in modo insanabile proprio in quella data, il 18 luglio 69, e in quel luogo, l'isola, la piccolissima isola di Chappaquiddick, per gli amici e per i frequentatori semplicemente Chappi, no? Come neanche fosse un mangime per cani, che poi altro non è che una micro isola con un centinaio di residenti fissi e all'epoca non più di un centinaio di case, oggi saranno 500 perché si è popolata, case di gente molto ricca, case di vacanze, case molto rispettose dell'ambiente, poi un piccolo paradiso terrestre distante, pensate, soltanto 200 metri da un'isola ben più grande che si chiama Martha's Vineyard, che insieme a Nantucket, no, siamo di fronte alle coste del Massachusetts, rappresenta un po' il campo di casa, il giardinetto di casa della famiglia Kennedy, Cape Cod, il vero cuore del New England più snob ed aristocratico, dove i Kennedy da sempre hanno comandato, hanno dettato il segno e hanno anche dettato lo stile di vita. Ebbene, che succede in questa isoletta di Chappaquiddick la sera del 18 luglio 1969? C'è una piccola festa in un piccolo cottage, una festa che non è veramente tale, un party che è un party solo nella definizione, nella convocazione, nell'aggregazione, ma che in realtà alla base ha un evento molto triste. L'evento triste è la morte poco più di un anno prima, per mano del killer Sheeran Sheeran, di Bob Kennedy. Bob Kennedy era in corsa per le presidenziali, aspirava a battere nel 68 l'avversario repubblicano Richard Nixon, venne ucciso a Los Angeles mentre stava cercando di sorpassare il suo diretto concorrente nelle primarie Hubert Humphrey, e in quella occasione il suo stratega principale, in quella ultima fase della sua carriera politica, lo stratega principale di Bob Kennedy era proprio suo fratello Ted, anch'egli entrato ormai decisamente in politica e assumendo il controllo della campagna di Bob Kennedy, di suo fratello. Alla base di questa squadra di lavoro, di questa campagna elettorale più piccola ma dinamica e speranzosa, come quelle che vi abbiamo descritto ad esempio qui a Jefferson seguendo la campagna 2008 di Barack Obama e dei suoi avversari, nel cuore di questa campagna elettorale c'era un gruppo di ragazze che erano state soprannominate le Boiler Room Girls, le ragazze della stanza dello scaldabagno, perché lavoravano in questa stanzetta senza finestre, tutte intorno a un unico tavolo, ma erano il vero cuore pulsante della campagna di Bob Kennedy sotto le dirette dipendenze di Ted Kennedy. Erano in pratica quelle che tenevano i contatti con i delegati di tutti gli stati e davano ai loro capi il senso, come stava andando l'andamento in diretta della campagna elettorale. Muore ucciso da Sheeran Sheeran, muore Bob Kennedy, la campagna si ferma, si arena, no? Si insabbia e la compagnia si scioglie dolorosamente, perché era un gruppo di lavoro molto affiatato che tra l'altro aveva dietro tutta un'America progressista che guardava con grande speranza questo gruppo, si scioglie anche con dolore, perché era un sodalizio e funzionavano, persone lavoravano bene insieme, che faticano a separarsi e di conseguenza tendono ad attrarsi, no, tra loro, a tornare in compagnia. Già c'è una reunion qualche mese prima che avviene a Yannis, dove c'è la villa dei Kennedy, organizzata dagli stessi Kennedy, si riuniscono tutti insieme, quelli che hanno lavorato per la campagna di Bob Kennedy, e fanno un'altra di queste feste, che vuol dire un barbecue, molti alcolici, le ragazze convocate per l'occasione e riunite per l'occasione, e poi questi vecchi, un po' più vecchi, stiamo parlando di quarantenni, questi notabili della politica, dello staff kennediano, con questo approccio così tipico di un potere americano consolidato, no? Quasi tutti uomini sposati, peraltro, però poi che queste riunioni fossero più che dei momenti di nostalgia, ma anche di empatia, non si può supporre. Si ripete questa riunione per sciogliere definitivamente la compagnia quella sera del 18 luglio 1969 in questo cottage sull'isoletta di Chappaquiddick. Arriva anche Ted Kennedy, che nel frattempo sta partecipando nella vicina isola di Martha's Vineyard a una regata velica. Sono presenti alla festa le sei ragazze ex membri della Boiler Room, la stanza dello scaldabagno dove lavoravano insieme, e sei uomini, una parità che lascia anche intravedere qualche dubbio nella natura di questo incontro. Comunque c'erano insieme a Ted Kennedy il suo autista, c'era un avvocato che si chiama Charles Tretter, c'era il cugino di Ted Kennedy che si chiama Joseph Gargan, e c'era Paul Markham, che è un amico di Gargan e futuro procuratore distrettuale del Massachusetts, quindi persone in vista, persone per bene. La festa comincia al tramonto, va avanti per qualche ora, si beve, si mangiano salsicce cotte sul barbecue, si rievocano i bei tempi andati della campagna di Bob. Nel frattempo Ted è entrato prepotentemente nello scenario della politica americana, è diventato un maggiorente del Senato, in un certo senso raccogliendo a sua volta il testimone del fratello, e quindi in un certo senso magnetizza l'attenzione dei presenti. È lui adesso il cavallo su cui scommettere, il personaggio più in vista, e poi bene o male è sempre un Kennedy che però verso le 11 di sera decide di andarsene, di lasciare la festa, di lasciare il party. Avvisa soltanto suo cugino di questa decisione, però della dipartita di Kennedy viene a sapere questa ragazza che si chiama Mary Jo Kopechne, che in realtà è la capa, no, di questo staff di fanciulle che hanno lavorato per Bob Kennedy, anche la più capace, una formidabile lavoratrice, anche una ragazza molto seria, si dice, che ha sofferto molto per la morte di Robert Kennedy. Addirittura Bob Kennedy la teneva così in rispetto, ne rispettava così tanto le qualità che aveva insieme a lei preparato il discorso di dichiarazione di intenti di discesa in campo per la nomination democratica. Mary Jo è in un certo senso la figura chiave del gruppo di ragazze che hanno lavorato per la campagna Kennedy. Mary Jo sente che Ted Kennedy vuole tornare a casa, che vuol dire prendere un piccolo traghetto che porta da questa isola di Chappaquiddick nell'isola maggiore di Martha's Vineyard, un braccio di mare di 200 metri che si supera in un minuto, e chiede a Kennedy di dargli un passaggio che le viene prontamente accordato. È tutto talmente rapido, frenetico e forse anche un po' clandestino che Mary Jo lascia nel cottage dove si svolge la festa sia la sua borsetta che le chiavi della stanza d'albergo. Monta in macchina con Kennedy, i due si allontanano insalutati. Addirittura Kennedy dice all'autista: statene lì a mangiare tranquillo, guido io. Partono e per circa mezz'ora di che cosa accada non si ha traccia né notizia. Si sa che mezz'ora più tardi un aiuto sceriffo che lavora a Martha's Vineyard ma abita nell'isola di Chappaquiddick vede una macchina nera, la macchina di Ted Kennedy, con a bordo un uomo e una donna, imboccare un sentiero sbagliato, perché a Chappaquiddick non ci sono strade vere, ci sono sentieri sterrati, piccoli, del tutto non illuminati. Fa per avvicinarsi alla macchina per dare informazioni, ma la macchina riparte in modo precipitoso, alzando una nuvola di polvere. Ted Kennedy imbocca una strada che non porta verso il vaporetto, anzi va completamente in direzione opposta. Sta andando a prendere il vaporetto. Cosa è successo in quella mezz'ora? Ci sono state delle avance sessuali? Tutto questo non si scoprirà mai la verità, non si accerterà mai la verità. Di fatto imbocca questa strada sterrata, non si accorge che la strada a un certo punto ha una curva a gomito su un ponticello, la macchina manca il ponticello, finisce nella sottostante roggia, si capovolge, si appoggia sul fondo del canale. Ted Kennedy riesce a riemergere dalla macchina, chiama il nome di Mary Jo. Mary Jo non risponde. Ted Kennedy si tuffa più volte, cerca di raggiungere la macchina adagiata sul fondo, non ci riesce, ci prova ancora una volta, poi abbandona misteriosamente la scena dell'incidente e si avvia verso il cottage, e si avvia anche verso l'inizio del guaio più grosso della sua vita. E quella è la notte dei misteri, la notte del 18 luglio 1969 sulla piccola isola di Chappaqiddick, quella macchina sul fondo con dentro una ragazza imprigionata, con un senatore dello stato del Massachusetts che lascia la scena dell'incidente di cui è stato responsabile e torna al cottage dove la compagnia di suoi amici è ancora riuniti. Non avverte tutti, avverte solo suo cugino e il procuratore distrettuale Markham, parla con loro, dice cos'è successo, i due lo accompagnano nuovamente al canale. Stranamente, nella strada che separa il canale dal cottage, circa 500 metri, ci sono delle case, ci sono delle luci, lui non cerca aiuto, soccorso, non dà allarme da nessuna di queste case. I tre tornano al canale, provano nuovamente a immergersi nell'acqua, nessun risultato, non si riesce neanche a raggiungere in mezzo all'acqua melmosa la macchina che è seppellita sul fondo. A quel punto la compagnia dei tre si avvia verso il vaporetto che riporta Kennedy alla isola principale di Martha's Vineyard. Qui avviene un'altra cosa stranissima: l'ultimo vaporetto è partito, c'è un telefono pubblico vicino al vaporetto, non viene chiamata ancora una volta la polizia. Ormai è passata più di un'ora dall'incidente e le autorità non vengono avvisate. Ted Kennedy compie un gesto pazzesco: si butta in acqua in piena notte nuotando controcorrente e traversa il braccio di mare che divide la piccola isoletta di Chappaqiddick dall'isola principale di Martha Vineyard. Lo supera a nuoto, arriva sulla spiaggia di Martha's Vineyard e si avvia fradicio, cammina sulla spiaggia, si avvia al suo albergo, entra nella sua camera d'albergo, si butta sul letto e si addormenta. Continua a non avvisare la polizia, continua a non avvisare le autorità. Si sveglia alle 3 del mattino per il rumore di una festa nell'albergo, protesta con la portineria, si toglie di dosso i vestiti umidi, ma continua a non avvisare la polizia. Alle 7 di mattina della mattina successiva incontra alcuni partecipanti alla regata e si fa quattro chiacchiere con loro. Poi viene raggiunto nuovamente da suo cugino che gli chiede che cosa stia facendo, perché non abbia ancora avvisato le autorità dei fatti avvenuti, e si dice sicuro che Mary Jo, la ragazza, in qualche modo sia uscita viva dalla trappola di quella macchina sul fondo del canale. I tre tornano nuovamente a Chappaqiddick, ma nel frattempo la macchina di Kennedy sul fondo del canale è stata scoperta da alcuni pescatori di prima mattina. Hanno chiamato la polizia, hanno chiamato un sommozzatore, il sommozzatore si è immerso, ha trovato il cadavere di Mary Jo, tra l'altro in una posizione particolare, con una bolla d'aria che l'aveva circondata, probabilmente rimasta viva per più di mezz'ora. Se fosse stato dato subito l'allarme, probabilmente sarebbe stata salvata. Solo quando Kennedy si rende conto che il cadavere di Mary Jo Kopechne è stato trovato, contatta le autorità, contatta la polizia, quando ormai sono trascorse circa 9-10 ore dall'incidente sul ponticello. A quel punto il suo guaio è di dimensioni formidabili, ma qui entra in ballo il discorso che vi ho fatto in apertura: un'America a due velocità, un'America dei potenti, un'America della arroganza del potere, un'America in cui la giustizia non è uguale per tutti. In un certo senso, da qui in poi il problema principale di Ted Kennedy non è fare i conti con la propria coscienza, ma è uscirne nel modo migliore possibile, e ci riesce dichiarandosi responsabile dell'incidente, dichiarandosi in stato confusionale, dichiarando le proprie responsabilità, ma scaricando naturalmente qualsiasi allusione di carattere sessuale, di carattere clandestino, in relazione al suo allontanamento dalla festa insieme a Mary Jo Kopechne. E poi decide di andare in televisione, dove pronuncia uno dei discorsi più famosi, più discussi e in un certo senso anche più scandalosi della storia politica americana. Questo qui. No truth whatever to the widely circulated suspicions of immoral conduct that have been leveled at my behavior L'America lo guarda, mentre Kennedy dice sì, sono responsabile, ho guidato in modo poco prudente, ma non ero ubriaco, non c'era nessuna liaison fra me e Mary Jo. Mia moglie non era sull'isola solo perché ha una gravidanza difficile, ma non dovete sospettare di me, comunque sono a vostra disposizione. Se lo Stato del Massachusetts vuole che io rinunci alla mia posizione di senatore, non deve che dirlo, non deve che esprimere questo parere e io lo farò immediatamente. Arrivano circa 10.000 fra telegrammi e telefonate, il 95-96% di chi contatta la televisione pubblica dice che Kennedy deve restare al suo posto. Pochi giorni dopo un processo chiude l'incidente, Kennedy viene condannato a 2 mesi per abbandono del luogo di un incidente di cui è responsabile. La storia viene chiusa, Kennedy resta al Senato, quella che è indubitabilmente conclusa è la sua carriera politica su base nazionale, i suoi tentativi di correre per presidenziali saranno sempre abortiti, finiranno sempre in sconfitte, ma Ted Kennedy resta un protagonista dell'America, un protagonista estremamente contraddittorio perché è un protagonista anche di un'America in quel 1969, 40 anni fa, esattamente domani ricorrono i 40 anni della notte di Chappaquiddick, ma di un'America che, come vi dicevo, fa i conti anche con la sua dimensione del potere, un potere che in certi casi riesce a piegare ai propri voleri perfino la giustizia. Here I am, carrying the child of our sweet love, and you're far away. That's how things go down, but I wanna see you again. Every Sunday, millions of fans experience the power and rush of NFL football. Bentornati a questa puntata di Jefferson che vuole a modo nostro, no, ripercorrere, inserirsi in questa rida di celebrazioni che circondano questo memento americano di 40 anni fa, l'America del 1969, l'America di Woodstock, l'America della Luna, l'America, come vi abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione di oggi, dell'incidente di Chappaquiddick e del disastro provocato da Ted Kennedy, su quale mai il grande senatore, il grande vecchio della politica americana ha detto tutta la verità e chissà mai se un giorno la dirà, ma certamente l'incidente su cui la sua carriera politica si è fatalmente incagliata, in un certo senso anche il nome dei Kennedy si è macchiato. Tenete presente che nella stessa, no, nello stesso posto, nella stessa isola, 30 anni più tardi, sempre luglio, sempre il 9, in quel caso il 99, si sarebbe inabissato l'aereo di John Kennedy, no, a pochi metri dall'isola di Chappaquiddick. dove nel 69 Ted Kennedy si inabissa invece con la sua macchina in una modesta roggia, forse anche in troppo alcol, ingollato. Ma ora vi raccontiamo una seconda storia dell'America di ieri, un'America da ripercorrere e da assaporare anche nei suoi temi più forti, più intensi. Naturalmente al primo posto, sarà banale dirlo, ma c'è sempre il tema del sogno, un tema del sogno che va sotto braccio già quando va in scena questa storia, ovvero nei pieni anni 70, con il tema dello sport. Sport inteso come via, no? Come strada principale attraverso il quale tanti americani qualsiasi, tanti ragazzi delle periferie, tante persone senza, prive delle opportunità e dell'educazione necessaria per accedere al sogno dalla porta principale, però lo sport professionistico, presto è diventato in America un modo per far vivere il proprio sogno, diventando un ricco professionista, un ricco atleta dello sport professionistico americano e soprattutto del football, no? Lo sport per antonomasia, in quanto incarna quello scontro fisico ma leale che è anche un po' al centro dell'immaginario americano. E questa è la storia di Vince Papale, 1946, Pennsylvania, chiare origini italiane, un film che ha raccontato questa storia, un film che si chiama Invincibile, che si è visto anche in Italia, in cui la parte di Vince Papale è interpretata da Mark Wahlberg, una delle più interessanti facce nuove, relativamente nuove, del cinema di Oltreoceano. Vince Papale è transitato dall'Italia, dal suo paese di origine, e Emiliano Enrico ha avuto modo di incontrarlo per Jefferson, per sentire proprio dalla sua voce la strana storia di come un ragazzo qualsiasi, anche un po' avanti in età, ormai con 30 anni suonati, le speranze di diventare un grande dello sport americano nel cassetto, possa improvvisamente aver visto concretizzato il suo sogno, perché la squadra della sua città, la squadra per la quale tifava, quegli Eagles di Philadelphia, in quel momento derelitti nel campionato professionistico americano, avevano talmente bisogno di nuova linfa da andarla a cercare un po' dappertutto, anche per le famose strade di Filadelfia, magari qualche talento un po' selvatico ma che portasse forza ed energia a quella squadra che non sapeva trovare più il capo della propria condotta agonistica. Ma cominciamo ad ascoltare Vince Papale, che ci comincia a raccontare la storia della sua famiglia fino al momento in cui la sua vita improvvisamente cambia, perché gli arriva questa strana possibilità offerta dalla dirigenza degli Eagles di fare un provino per la squadra dei professionisti. Ci siamo, sentiamo Vince. My family, my grandfather had the dream, and Vincenzo Papale from Naples. La mia famiglia, in particolare mio nonno, aveva il sogno americano. Vincenzo Papale partì da Napoli e arrivò negli Stati Uniti nel 1901 con l'ambizione proprio di dare una vita migliore alla sua famiglia. Vincenzo Papale aveva 9 figli, era un contadino e ha lottato duramente, prima durante la Grande Depressione e poi durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi arrivò il turno di mio padre, che a sua volta lavorò molto duramente. Aveva 2 figli, uno dei 2 ero io. Io ho avuto un'infanzia davvero umile e povera, senza soldi. Mia madre, che faceva l'insegnante, era persino malata. Ma è stata lei soprattutto la mia guida e la mia maestra. È stata lei ad indirizzarmi nella vita verso la giusta direzione. Così sono andato al college, al prestigioso St. Joseph di Filadelfia, dove ho fatto parte della squadra di football. Dopo la laurea sono tornato all'università come allenatore della stessa squadra di football. Fino al 1976, quando è arrivata la grande occasione della mia vita, il sogno che diventa realtà, giocare nei Philadelphia Eagles. And was a coach, a track coach and a football coach. And then in 1976 I had the greatest opportunity of my life. To have my dream come true, and that's to play for the Philadelphia Eagles. Quindi 1976, il football è già una grande macchina di spettacolo, il football professionistico, e la squadra degli Eagles non ingrana, cercano nuovi giocatori. Arriva la chance per Vincent Papale, questo italo-americano con, bene o male, il football nel sangue. Ecco come cambia la sua vita. Well, in 1976, the city of Philadelphia was actually celebrating its bicentennial. its 200th year anniversary. Nel 1976 Philadelphia festeggiava i 200 anni della sua storia e arrivò per me la possibilità di giocare nella squadra degli Eagles. La squadra, che era in grossa difficoltà, pensò di aprire a tutti, anche ai dilettanti, i provini per scegliere i giocatori della formazione titolare, una cosa che non era mai successa prima. Io riuscii a cogliere questa opportunità e fui l'unico selezionato. In realtà la scelta su di me fu piuttosto facile, perché ero il più veloce di tutti e in più avevo una certa predisposizione a ricevere il pallone, insomma avevo una buona presa. Quando iniziai a misurarmi con gli altri giocatori degli Eagles, la sensazione era stranissima. Quelli con cui giocavo erano i ragazzi per cui facevo il tifo e ora invece ci giocavo assieme per lavoro. E alla fine venne fuori che ero il più bravo. Il risultato fu che a qualcuno questo non andava bene e così iniziarono i colpi bassi. Alle spalle, sulla schiena, magari venivo colpito con l'obiettivo di infortunarmi. They were hitting me behind the back or hitting me from behind or hitting when I wasn't looking and doing everything they could to injure me so that I wouldn't make the team. E sono gli imprevisti del sogno americano, ma insomma pensate un po' di essere un ragazzo qualsiasi in Italia e un bel giorno la Juventus o l'Inter o il Milan o la Roma o il Napoli vi dice che si può provare per entrare in prima squadra, ecco, più o meno una dimensione del genere. Sentiamo a questo punto dalla voce di Vince Papale che cosa successe a quel punto. It was totally changed. I went from somebody who was frustrated to somebody who was celebrated. La mia vita in effetti cambiò completamente. Sono passato rapidamente dalla condizione di qualcuno che è depresso a quella di chi viene celebrato. Divenni una star, una specie di principe della città. E ogni volta che andavo a giocare, in casa ma anche soprattutto lontano da Philadelphia, ero stupito del fatto che i giornalisti parlassero proprio con me. La mia carriera agli Eagles è durata 4 anni ed è finita per un infortunio alla spalla. È difficile scegliere il momento più emozionante di questa carriera. Me ne vengono in mente 3. Quello in cui l'allenatore mi ha detto: «Ok Vince, sei stato scelto per la prima squadra». Il secondo è stato quando ho giocato per la prima volta nello stadio di Philadelphia. L'impatto con la gente, lo stadio è stato incredibile. Infine, il terzo momento più bello è stato un placcaggio che ci diede la vittoria. Anche nel film ispirato alla mia vita, questa azione è stata ricordata con enfasi. That now is celebrated in the movie. So they, I guess they're my favorite moments and the ones that I'll always remember. E ci sono le fotografie, potete trovare anche su internet, di Vince Papale insieme a Mark Wahlberg, l'attore che ha interpretato la versione cinematografica di questa sua incredibile storia, che a Philadelphia, che poi è una città, forse è la città italiana in America per antonomasia, la colonia italiana è fortissima, è nutritissima. Beh, Vince Papale è a tutti gli effetti ancora oggi un idolo, un modello, no? Soprattutto qualcosa a cui ispirarsi, la possibilità del sogno americano. Sentiamo che sensazioni gli provocano in lui tutte queste incarnazioni del suo passato e anche del suo presente. It's a great feeling to be considered to be their hero. In Philadelphia I'm often compared to Rocky, the fictional character, and they call me the real life Rocky. È una grande sensazione essere considerato un eroe. A Philadelphia sono paragonato ad un altro mito cittadino, Rocky, ma il momento di cui vado più fiero è stato sicuramente quando ho scoperto che i tifosi mi avevano votato come miglior giocatore nella storia degli Eagles. Non solo, sono stato inserito anche nel Dream Team e nella Hall of Fame della squadra. Tutto questo è motivo di orgoglio, soprattutto se ripenso alla mia passione e ai miei sogni da bambino. Vedersi proiettato da semplice dilettante a membro della Hall of Fame è stupendo. Many of the men that are on that team are guys that were idols of mine when I was a child, growing up cheering for them, and now I'm on their same team, the Philadelphia Eagles Dream Team. Suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Together. decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you. Now, you gotta try out this weekend. Nobody's trying out. He's 30 years old for one thing. The Eagles' biggest fan. So the one where Vince runs around everyone. E questo è di nuovo il trailer di Invincible, il film con Mark Wahlberg che racconta la storia del protagonista di questa seconda parte della puntata di oggi di Jefferson, la storia di Vince Papale. Abbiamo fatto una puntata di mezza estate, ci siamo allineati con questa grande voglia di rievocazione dell'America degli anni 60 e 70. Nella prima parte del programma vi abbiamo raccontato un altro 69 americano, oltre a quello della Luna o quello di Woodstock, il 69 dell'incidente di Chappaquiddick con le responsabilità dirette di Ted Kennedy, e poi la storia di un sogno americano che si è realizzato, quello di Vince Papale, un ragazzo di Filadelfia che d'improvviso, quando ormai sembra quasi troppo tardi, a 30 anni suonati, entra a far parte di una squadra professionistica, la squadra della sua città, la squadra di football dei Philadelphia Eagles. Gli chiediamo allora a questo punto se storie come la sua, come così incredibili, siano ancora possibili oggi. That's a great question, and I'm not sure that in the NFL that will ever happen again, and it's not because there aren't guys out there or athletes out there, men and women. Non sono sicuro in realtà che oggi nella NFL possa succedere la stessa cosa. Ci sono tanti ragazzi e tante ragazze a cui al giorno d'oggi non viene data neppure una possibilità. Però ci sono storie che mi fanno venire in mente la mia. Nel passato penso ad esempio a quella di Mario Andretti, anche lui di origini italiane, che con la famiglia si trasferì a Filadelfia per poi diventare uno dei più grandi piloti della storia dei motori. Per venire invece al presente, in America oggi c'è il grande Michael Phelps, uno che ha avuto esordi difficili, che poi ha lavorato duramente ed oggi è un vero eroe, il più grande nuotatore della storia delle Olimpiadi. And here he is now, a hero, and an Olympic champion, and the best Olympic swimmer ever in the world, in all time. So to me there's two great examples. Sapete una cosa? È strano come poi il sogno americano, in fondo è un sogno ed è giusto che sia così, sia anche capace di mescolare realtà e fantasia, no? Nelle stesse parole di un uomo fatto, anzi di un'incarnazione vivente del sogno americano come il nostro Vince Papale, sentite come si mescolano a un certo punto Rocky, che è un personaggio di fantasia e non potrebbe essere altrimenti, la sua è una vera e propria favola, però siamo sempre lì, siamo sempre alla celebrazione del sogno americano e, tra parentesi, siamo anche sempre lì a Filadelfia, perché Rocky si svolge a Filadelfia. E poi la storia di Michael Phelps, che invece è un signore in carne ed ossa, è il campione in carne ed ossa, anzi il campione dei campioni, che però nella mente, nell'approccio allo sport e a ciò che attraverso lo sport si può raggiungere in America, si mescola con Rocky, no? Rocky Balboa e Michael Phelps in un certo senso convivono, si intrecciano, e forse il prodotto diventa proprio un personaggio come Vince Papale, un uomo che ha vinto e che ha vinto non solo sul campo dello sport, ma che ha vinto anche altre battaglie addirittura ben più dure, come quella contro il cancro. La sua storia in un certo senso risuona quella di Lance Armstrong, no? Il grande ciclista che ha vinto a sua volta la battaglia con il cancro e in questi giorni è in corsa con molto onore sulle strade di Francia al Tour de France. Sentiamo che cosa ce ne dice Vince Papale. Well, first of all, probably the biggest victory in my life was not defeating cancer. It was getting my wife Janet to marry me. Prima di tutto devo ammettere che la più grande vittoria della mia vita non è quella contro il cancro, ma il fatto che mia moglie Janet mi abbia sposato. Abbiamo due figli bellissimi, Gabriel e Vincent. Dico questo perché mia moglie mi ha salvato letteralmente la vita. Fu lei ad incoraggiarmi a fare gli esami medici dai quali venne diagnosticato il tumore. Così mi sono sottoposto a un intervento chirurgico e per tutta la fase delle cure ho avuto mia moglie sempre al mio fianco. Oggi vado in giro per l'America a portare la mia testimonianza di sopravvissuto al cancro. C'è una parte bellissima nel film che parla proprio di questo ed è un grosso aiuto quando vado a parlare con la gente. And to me that's one of the best parts of the movie. It gives me a platform to speak about cancer and the terrible disease. E quindi un personaggio che è un esempio, forse è anche uno stereotipo, ma certamente anche un esempio del sogno americano. Per concludere la nostra chiacchierata con Vince Papale, naturalmente gli abbiamo chiesto un parere sull'ultima grande, straordinaria, globalmente nota, no? Incarnazione del sogno americano, quella messa in scena dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il sogno americano per eccellenza. Ecco cosa ne dice. Well, certainly President Obama is the first ever to be the president of his race. Non c'è dubbio che il suo è un sogno impossibile che è diventato realtà, un nero che diventa presidente degli Stati Uniti. Detto questo, è troppo presto per dare dei giudizi sul suo operato. Personalmente mi piace molto l'uomo Obama, vorrei giocare a golf o a basket con lui, ma ripeto, bisogna aspettare del tempo per verificare se il cambiamento che ha promesso si realizzerà o meno. And really can't affect change right now. It's still too early to judge. Bene, questa puntata di Mezz'estate noi l'abbiamo celebrato così, quel 1969 americano di cui le pagine dei giornali sono piene in questi giorni. Vi abbiamo raccontato la storia di un terribile incidente e di una vicenda assai opaca che va sotto il nome di Chappaquiddick, di Ted Kennedy e dell'improvviso arresto delle sue fortune politiche per una colpa forse mai del tutto confessate. Poi vi abbiamo raccontato la storia di chi ha incarnato, tra l'altro sotto i colori italoamericani, il sogno, quel sogno americano che resta uno dei simboli più potenti d'oltre oceano. Questo era Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico. Vi auguriamo un buon weekend. La puntata peraltro è in replica a mezzanotte, ma l'appuntamento per la diretta è come sempre lunedì attorno alle 4 qui su Radio 24. State bene, buon weekend.